stiamo facendo le nostre scuse perché non abbiamo fatto in tempo quest'oggi a prenotare il sole, però siamo puntuali, 11:31 minuti, venerdì 9 febbraio, il Jazz Live è vigilia di weekend, ci impegneremo con la musica. Buongiorno Alfredo. E buongiorno William, sì, se il sole non c'è, anzi cioè, si prevede un weekend dei migliori. Così insomma, ma la musica al Torrione c'è, e come, noi siamo puntuali, abbiamo tante voci da proporre a voi con tanta musica, facendo anche un passo indietro, poi non parleremo solo del Torrione ma daremo anche qualche anticipazione, ma questo sarà nel corso del Jazz Live odierno. Allora, ho detto un passo indietro, sì, un concerto, mi permetto di portare il mio entusiasmo come mi confà al microfono di Radio Città Fujiko, perché il concerto di Michael Formanek con la formazione che andremo a presentare a breve dal progetto Give and Take è stato memorabile, un concerto molto molto bello al Torrione per il main concert della settimana scorsa, era sabato 3 febbraio, un Torrione curioso e attento, non ha deluso le aspettative, anzi tutt'altro, ha entusiasmato, quasi 2 ore di concerto senza sosta, musica intensa ma mai ossessiva, musica costruita nel contemporaneo, nell'improvvisazione e la struttura di dialogo per una formazione quanto mai preparata. A te la parola Alfredo, visto che eri presente. Sì, beh, ero presente perché è una performance di Michael Forman che difficilmente va persa, anche perché è un musicista che ha attraversato tante formazioni dai tempi che si esibì anche a Bologna, credo, sì, al San Martino con Tim Berne, fino ad altre formazioni, passando anche per l'etichetta CM, insomma, qui si è presentato, ricordiamolo, con una formazione di primo ordine, perché chiaramente Forman anche al contrabbasso ha questa sonorità prepotente, cioè sembrano 10 contrabbassi, sì, assieme. Poi c'è Michael Attias, magrissimo, a differenza di Forman che è qualche chilo troppo, che è un contralto davvero curioso perché ha una sonorità davvero lamentosa, strascicata, ma anche molto intelligente, che rimbalza appunto e dà una personalità molto forte al sound del gruppo. Poi Alexander Hawkins al pianoforte, che è veramente un maestro, sì, l'abbiamo visto in altre occasioni, il duo anche con il disco con Ottaviano, tornerà anche più avanti ancora col gruppo del quartiere di Ottaviano, sempre al Torrione. Comunque è un musicista che sa cucire, inventare sia nell'accompagnamento che anche nell'assolo veramente soluzioni innovative, ricche di strutture, insomma c'è una presenza, un'ucidità che è davvero notevole, oltre che ovviamente sorretta da una grande abilità tecnico-virtuosistica. E poi, francamente, una sorpresa che non conoscevo, questo giovane batterista Devin Gray. Era sudato spolto alla fine. Sì, ma è quella generazione di batteristi che ha preso poi il via, direi, dal più anziano, Dave King, che sono dei vulcani che sanno mettere insieme tante grammatiche musicali, dal tipica jazz fino alla grammatica rock, passando per anche momenti di capacità di improvvisazione, quasi coloritura. Insomma, è davvero, quando tu hai un gruppo che ha una base come quella di Formanek e Dennis Gray alla batteria e due solisti come Hawkins e Michael Attias, beh, direi che rimane l'incognita delle composizioni che invece erano all'altezza del gruppo. Tutte originali. Beh, Forman, che è un gran bel compositore, sì, da sempre. Sì, eccezionale, con Alexander Hawkins che per me adesso è il numero uno per mio gusto personale al pianoforte, e questa sorpresa per me parkeriano anche nel suo approccio musicale per il contralto di Michael Attias, e questo ovviamente lo ascolteremo perché ho visto bene di riportare un brano del concerto di Michael Formanek, Give and Take, la settimana scorsa al Torrione. Thank you. questo sono io. È stato un concerto funky, ma quanto gode poi Alexander Hawkins ad accompagnare il pubblico in questa apparente confusione, e quanto ho goduto anch'io, come avete sentito dai miei urletti di entusiasmo all'assolo di Alexander Hawkins. E non solo, beh, per quanto riguarda anche l'applauso finale a questo assolo, che ha portato un pubblico molto attento e allo stesso modo anche curioso per queste sonorità, un concerto entusiasmante. E poi, nonostante il contrabbasso non abbia una grande resa dal punto di vista radiofonico, in più qui era registrato, si sentiva perfettamente in maniera incisiva da questo omone che ha una grande forza. Sembravano sul palco 10 contrabbassi, cioè qualcosa di incisivo, ma come ho già detto, mai ossessivo. Una confusione ordinata, moderna, affascinante, originale. Gran bel concerto, insomma. E noi andiamo avanti. Sì, anche perché guardando anche poi i programmi che sono fino a primavera, sì, del Torione, ci sono tante altre cose da seguire. Certo. Anche a livello proprio top top top. Sì, sì, sì, ovvio, noi mettiamo l'accento su quello che abbiamo vissuto e anche su quello che abbiamo ascoltato nella ricerca. E poi vediamo la prossima settimana. Certo. Cioè, anzi, però, da stasera. Però ho fatto ricerca anche nel mio mobilone dei vinili e ho trovato queste registrazioni di Lenny Tristano. Ascoltiamo 2 minuti di Nate in Tunisia. Non guasta mai. Ma quando è stato scritto Nate in Tunisia, l'originale? Dunque, Nate in Tunisia, Dizzy Gillespie, deve essere Gillespie. Un brano del 42-43. Ok, perfetto, perché queste registrazioni sono del 46. Sì. Questa è una delle versioni più belle che io abbia mai sentito di Night in Tunisia. Beh, ce ne sono diverse. Sì, beh, è stato. Ti consiglierei anche un Sonny Rollins con Peter La Rocca, per esempio. Ecco, oppure un male. Charlie Parker che Fabulous Break. Allora, a proposito, mi hai anticipato gesticolando e mi mando il suono della chitarra. Io Billy Bauer. Esatto. Mitico. Fenomeno. Cioè, tu pensi fenomeno. Che per un certo periodo, in quella logica curva sud curva nord, si era creata una sorta di contrapposizione tra l'uomo del bebop Charlie Parker, Gillespie e gli altri, e gli uomini del cool jazz, Lee Konitz. Ah, ok. Che invece è una grande sciocchezza, anche perché le intervistano, a parte che sono stato diverse volte con Lenny, con Charlie Parker, ma poi, come dice Russell, probabilmente era il pianista che era l'unico a livello di Charlie Parker per creare delle armonie sotto di pianoforte. Sì, quindi perché non è tifoseria. Era un'interpretazione del bebop, il cool jazz. Sì, e questo poi tra l'altro ha anticipato Billy Bauer. Anche alcuni studi per quanto riguarda, mi permetto, la musica elettronica, perché Lenny Tristano registrava su nastro, fu anche riproponeva, criticato. Perché quando fece We Complex, quel giro in sol, accelerato, tutti pensavano che fosse un trucchetto da quarto ordine. Dice per mostrare che è più bravo di quello che non è. Ti immagini, abbiamo sentito. Proprio da pensa lui. Adesso quanti trucchetti di quarto ordine, perché non c'è nessun suono che non sia manipolato. No, Tristano era un profeta. Sì, è stato avanti, certo. E allora, per guardare avanti, a questa sera alle 21.30 un contrabbassista, Francesco Ponticelli, è una scoperta dal Dream Team di Rava, che aggiunge a Gianluca Petrella, al chitarrista Francesco Diodati, anche la figura di Francesco Ponticelli al contrabbasso. Ormai non si può più definire juniores, ormai no, in prima squadra di successo alle spalle. Sì, è in prima squadra. Lui è un ricercatore, non disdegna di lavorare anche lui, ormai è quanto mai diffuso nel mondo dell'elettronica, esplorare anche i territori rock. Il suo progetto, in collaborazione fra l'altro con la Took Music di Paolo Fresu, vede un dialogo con il cantautorale e anche con degli aspetti elettronici in stile, lui stesso definisce, trip hop. Il titolo è Mega Pascal. Allora, cos'è un Mega Pascal? È l'unità di misura della pressione. Qua è tornato il mio studio da elettrotecnico. Il Pascal sui conduttori è l'unità di misura della pressione, è una delle unità di misura sulla pressione. Insomma, sarà al Torrione questa sera alle 21.30 con Francesco Zanisi, che già abbiamo conosciuto al pianoforte. Questo è un altro elemento di da tenere sott'occhio, pianoforte italiano. Sì, sì. Samuele Cima la chitarra, Giovanni Iacovella la batteria. Ho contattato Francesco Ponticelli per saperne di più, per avere qualche anticipazione sul disco che troveremo questa sera al Torrione e sui nuovi territori di ricerca che sta esplorando il contrabbassista Francesco Ponticelli. Beh, è un disco in cui mi sono, diciamo, cimentato su un territorio abbastanza nuovo per me, perché è un disco a cavallo tra vari generi, diciamo, non è un disco di jazz, se così si può dire. Ci sono molte influenze che vanno da, diciamo, una sorta di canzone italiana mescolata con elettronica, post rock e forte influenza anche di musica classica. L'organico nel disco c'è il quartetto d'archi ed arpa, che appunto danno questo di ispirazione, insomma, in questa sonorità classica, e poi c'è molta elettronica, ed è un disco molto scritto e molto prodotto, in cui ci sono piccole parti di improvvisazione, ma fondamentalmente più, ecco, sull'arrangiamento, sull'architettura dei brani. E per la prima volta mi sono anche cimentato nella scrittura dei testi, che è stata una cosa molto appassionante. Sì, com'è nata questa idea? Perché questo esperimento, Francesco? È nato, diciamo, la prendo un po' larga, già dal titolo, questo discorso del Mega Pascal, che è un'unità di misura della pressione, fa riferimento al periodo storico in cui viviamo e siamo sottoposti, ecco, a una forte pressione. Mi riferisco all'instabilità politica, al problema ambientale, e diciamo mi sono sentito di dover, come musicista, come artista, di dover reagire a questa cosa, cioè reagire alla situazione attuale, al presente, e cercare qualcosa di diverso e fare una ricerca creativa diversa. Questo è stato, diciamo, lo stimolo. Certo. E ho trovato invece nel programma del Torrione una formazione più ristretta, diciamo così. Ci puoi parlare della diversificazione di quello che invece ascolteremo sul palcoscenico ferrarese? Sì, diciamo, sia per motivi, come dire, pratici, che in ottetto non molto difficile girare, ma anche perché questa formazione con cui sto presentando il disco, che è in quartetto con Samuele Cima, voce, chitarra, e Enrico Zanini Panisi al pianoforte, sintetizzatori, e Giovanni Jacovella alla batteria, mi permette, oltre a girare in maniera più agile, anche di recuperare la parte di improvvisazione, a cui chiaramente tengo tantissimo, e quindi live rispetto al disco è più, le strutture sono più aperte, c'è molta improvvisazione, molto interplay, e quindi si parte da questa architettura dei brani per poi sviluppare il discorso musicale in maniera più estemporanea. La produzione per la Took Record sempre? Esatto, sì, è un'etichetta con cui ho stabilito un rapporto da più di 10 anni, e questo è il mio terzo disco che pubblica la Took Music. Abbiamo la possibilità di ascoltarne un alternate take per la serata di venerdì 9 febbraio. Questa ne è un'anticipazione col dialogo grazie a Francesco Ponticelli, Mega Pascal, Alto Orione, e io ti auguro una buona giornata e ci vedremo venerdì. Grazie. Grazie a te e a tutti. Capisco che abbia citato nella presentazione del lavoro che appunto porta Ponticelli questa sera al Torrione anche il trip hop di Bristol con i Portishead, oltre che l'ambient, il post rock, insomma delle sonorità che vanno a sfiorare, e l'elettronica è immancabile nelle sue composizioni, toccano diversi punti. È una scoperta valorizzato da Rava, come lo stesso Petrella, come Diodati. Tra l'altro Rava, faccio una piccola divagazione, sarà il 21 marzo, un giovedì, al Festival Jazz di Sassuolo, quindi ancora in attività. Ogni tanto sai che esploriamo in lungo e com'è che in attività? E chissà quante tra l'altro ne scoprirà ancora. E certo. Da Bollani. È vero, Bollani, tutti ho lasciato indietro. Li ha scoperti tutti. Talent scout di grande interesse. È un po' come Arblechi, no? È vero, sì, con i jazz. Che non è un complimento da poco. Beh, insomma, c'è da esserne fieri, e come, non si offenderà. No. E intanto noi che procediamo non solo con il Torrione, ma così dando qualche novità per quanto riguarda il Primavera in Jazz, e sapete bene che vuol dire Paradiso Jazz. All'Arci San Lazzaro sarà protagonista a breve. Intanto facciamo una buona convalescenza, un augurio di buona convalescenza a Marco Cocchi. Lo vogliamo qua da noi subito, perché abbiamo della sua competenza. Certo, delle presentazioni, dei percorsi a San Lazzaro che portano nuovamente un variegato programma per una buona Primavera 2024. A tale proposito, qualche anticipazione, poi esploriamo più nel dettaglio più avanti anche con Marco qua in diretta con noi. Ho portato un brano di Bill Evans, il Bill Evans saxofonista. Quello del free grass, questo incrocio tra il funky, il cajun music, la fusion, insomma una cosa molto sua che l'ha caratterizzato. È un notevole solista, ovviamente la musica molto robusto, spettacolo da ballare, divertente. E tornerà per il Paradiso Jazz per concludere la rassegna, non con questa formazione di cui vi ho portato un brano che ci accompagnerà alla pubblicità, ma per darne anticipazione e portare note eterogenee alla nostra playlist di oggi, venerdì 9 febbraio. A tra poco, per continuare con il main concert, il concerto di sabato al Jazz Club di Ferrara. A tra poco. Oh, Di nuovo in diretta a mezzogiorno e un minuto, 9 febbraio, venerdì, vigilia di Weekend Jazz Live, alcune anticipazioni con il Paradiso Jazz. Abbiamo parlato del sax tenore soprano di Bill Evans, abbiamo parlato di contrabbassisti al Torrione, Michael Formanek per la settimana scorsa, il venerdì questa sera con Francesco Ponticelli. Aggiungo un altro contrabbassista in un disco che è un All Star Game di artisti di qualche anno fa, sarà presente nel programma del Paradiso Jazz in attesa di darne estesa presentazione. Lui è Christian McBride. Ok, lo otterremo come base per dedicare questa mezz'oretta al Jazz Club di Ferrara, il Torrione. Dal contrabbasso al pianoforte, caro Alfredo, mi hai detto che il protagonista Antonio Farò, tu hai già ascoltato un concerto all'Aquila per questo Natale. Sì, infatti a fine d'anno c'era questo concerto in formazione diversa. Era con Chico Freeman, sassofonista, Coltrane Doc, e infatti l'ha dedicata a Coltrane, da Alabama, insomma, a cose anche rivisitate o a pezzi nuovi, comunque con l'impronta coltraniana. Parlando di Farò, spiccava due cose: primo, che a differenza di Chico Freeman, che suona proprio da Coltrane, in realtà ha studiato con Coltrane, quindi in qualche modo figlio d'arte, ma Farò invece ha un modo di suonare che si distacca moltissimo da McCoy Tyner, quindi in qualche modo c'è questo gioco di antico e moderno, e devo dire che mi ha colpito la sua incredibile tecnica. Ha una capacità di portarle entrambe le mani molto spesso sull'aspetto destro del pianoforte, quindi sulle note alte, e si fanno una mano fa il contrappunto a quell'altro in velocissime scale. Insomma, è davvero bravissimo. Solitamente noi sappiamo che Farò staziona a New York, sì, e suona con musicisti americani, è un protagonista del del modern jazz, e quindi ama rifare ballad, insomma questo è il suo terreno, e dal vivo credo che è sempre da vedere. Qui lo troveremo sabato sera con Carlo Bavetta al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria. Quindi un classico piano trio, se vogliamo. Devo dire che il piano trio, o il pianista è molto bravo, oppure è un anestetico. Perché va avanti. Non credo sia questo. No, caso. Con Farò no. Con Farò no. Ripeto, è davvero un musicista al pianoforte sorprendente. E abbiamo anche qui una piccola anticipazione al concerto di domani. Del concerto che sarà sabato 10 febbraio al Torrione, è un trio: Antonio Farao al pianoforte con Carlo Bavetta al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria. In collegamento telefonico con noi Antonio Farao, bentornato sia a Ferrara che a Bologna con Radio Città Fujiko. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Puoi parlarci un pochettino sia della formazione che di quello che ascolteremo al Torrione per la giornata di weekend? Allora, la formazione, c'è Vladimir Kostadinovic, che è praticamente il batterista del mio trio, e adesso c'è una new entry che è questo ragazzo di 25 anni, si chiama Carlo Bavetta, appunto molto talentuoso, farà gran parte dei concerti, i prossimi concerti che sono in programma. Il programma che suoneremo riguarda sempre dei brani originali, ovviamente anche del nuovo CD che tra l'altro è inciso a fine luglio a Parigi con John Battitucci e Jeff Ballard, che uscirà a maggio del 2024. Appunto, quindi ci sono brani originali e brani standard, quindi diciamo il programma sarà un po' vario, ecco. Interpretazioni e originali dal lavoro che è di imminente uscita. L'interplay tra di voi è con una costante intersezione o è il piano trio come lo si intende nella tradizione, Antonio? Io ultimamente cerco sempre delle strade che insomma di interplay assolutamente, e di avere un po' una concezione del tempo e dell'armonia, insomma degli assoli, insomma non proprio rispettando la tradizione ovviamente, però uscendo un po' dai canoni. Quindi a me piace anche il drumming straight ma anche aperto allo stesso momento, quindi ho bisogno di musicisti che chiaramente la pensano in questa direzione, quindi quello è un po' la mia direzione, ecco. Certo. We'll be right back. permettimi una piccola divagazione, Alfredo. Tra 2023 e 2024 abbiamo avuto una collaboratrice che ha finito il suo percorso con Radio Città Fugico. Volevo ringraziare Viola Balzano. Oh, grande, mitica Viola. Non solo per la tenerina al cioccolato, che abbiamo apprezzato. È stata una collaborazione importante. Una collaborazione proficua e importante. Grazie, Viola. Ti aspettiamo sempre e comunque. Intanto la linfa dei giovani è fondamentale per la nostra emittente, per le nostre redazioni. Procediamo così, ascoltando le note di Antonio Farò con un'altra formazione in questo brano che sta intervallando i nostri motivi di conversazione. Allora, Alfredo, leggo tra le collaborazioni: Jack DeJohnette, Eddie Gomez, Chris Potter, Gary Bartz, Lee Konitz, Steve Grossman, Miroslav Vitus, John Abercrombie, Richard Gagliano, Johnny Griffin, Marcus Miller, e non mi manca ancora metà della pagina per leggere le collaborazioni di Antonio Farò, che esattamente come ne hai dato anticipazione ha queste caratteristiche di un mainstream, però sempre molto forbito e molto particolare. Nella seconda parte di conversazione, grazie per la disponibilità, era in viaggio in treno, fra l'altro. Allora, dopo tutte queste presenze, mi sono permesso di chiedere qualche episodio, insomma, con questi grandi nomi ad Antonio. Stai lavorando anche ad altri progetti o di base, visto che sta per uscire questo lavoro, sei più concentrato su quello che è nell'attualità? Sicuramente concentrato su quello che dovrà uscire tra poco, insomma, a maggio, appunto, su questo progetto, che tra l'altro è un disco che uscirà per Criss Cross, un'etichetta storica jazz. In più adesso sì, ho altri progetti in programma, assolutamente. Uno di questi, appunto, il piano solo che andrò a registrare dopo questa uscita di questo disco qua. E poi ci sarà anche un Eclectic 2 sul quale sto già, insomma, mettendo un po' le mani, e quindi insomma vediamo, insomma, progetti non mancano, ecco. No, neanche le collaborazioni che hai avuto con Chris Potter, con Miroslav Vitus, Jack DeJohnette, Eddie Gomez. Certo, certo. Hai qualche ricordo in particolare o qualche artista di quelli citati che così a bruciapelo ti viene da riportare in questa conversazione? Sicuramente l'esperienza con Benny Golson, che è veramente un cista e compositore straordinario, un master, uno dei master viventi che abbiamo, e anche come persona è una persona splendida. Purtroppo adesso, prima della pandemia, dovevo fare dei concerti con lui, poi sono saltati per questo motivo, quindi adesso lui ha 94 anni, non fa più concerti, insomma, in sostanza. Quindi è stata l'ultima chance che mi sono giocato prima del problema che c'è stato. Ci sono anche altri artisti, ovviamente, adesso a ricordarmeli, non vorrei poi magari, certo, che qualcuno se la prendesse. No, ma infatti è una domanda un po' difficile. Benny Golson, devo dire che è nella top list, ecco. Sì, è come quando chiedo ai curatori qual è la vostra opera preferita nell'esposizione, sai, un attimo, una domanda è come dire quale dei figli è il tuo. Esattamente, esattamente. Non si può dire, perché l'amore lo dai a tutti. Certo. E intanto noi ti aspettiamo a Ferrara, ovviamente. Grazie per questa conversazione che ha anticipato il concerto che sarà il 10 febbraio. Antonio Farò Trio, con Carlo Bavetta al contrabbasso e Vladimir Kostadinovic alla batteria. Buon proseguimento, allora. Buon soggiorno. Grazie mille. Ciao. Grazie, e a presto, allora. Arrivederci. Ho visto tanti di quei nomi che ho detto, oh, chissà, qualche esperienza. Benny Golson è stato anche nei Jazz Messenger, sì, mi pare, nell'ultimo periodo. Sì, comunque anche l'ultimo disco con Patitucci e McBride. È vero, anche questo, cioè, lo attendiamo. Diciamo poco, sì. A proposito, aspettiamo, presenteremo magari, ma questo è nel territorio di Salpinaz, che ricordiamo che domani, che vai con l'anticipazione, domani abbiamo l'ultimo lavoro di Linda Mayo, questa bassista che tanti accompagnamenti importanti, deve essere in prima fila. Poi Jamie Branch, trombettista più che promettente dell'ala californiana, morta recentemente, ahimè, per overdose, quindi è l'ultima produzione. E poi Ron Orton, che è questo trombettista che lavora, conosciutissimo nell'ambiente degli artisti, perché lavora a orchestra, magari meno conosciuto in Italia perché ha fatto diversi dischi. E questo Prayer for Andrew, il terzo disco che presentiamo, è davvero bello. Bene, domani alle 11 Radio Città Fujiko 103.1, mentre per i live venerdì dalle 11.30 fino alle 12.30, come quindi sempre. Questi ultimi 10 minuti, poco più, abbiamo diviso tutti gli spazi in maniera equa, li dedichiamo alla rassegna di domenica, Serico Tonale curata da Istantanea. Vedono una coppia, chitarra elettrica Biagio Marino, Zeno De Rossi alla batteria. Zeno De Rossi, beh, ormai si può dire anche amico di Radio Città Fujiko, come tanti musicisti, e non solo, anche presente e costante nei progetti del Torrione. In questo incontro, muovendosi tra jazz, rock e improvvisazione, il duo indaga le possibilità interpretative offerto da un repertorio di brani originali. Quindi ne esce un disco, Bricks Hill Gently, da Fontana Rossa Record del 2022, che sarà proposto, più anche nuovi motivi di ricerca. Ho sentito Biagio Marino e diamo anticipazione anche alla rassegna Serico Tonale curata da Istantanea. La rassegna Istantanea curata da Serico Tonale porta per domenica 11 febbraio un duo, Biagio Marino e Zeno De Rossi. Biagio Marino alla chitarra, Zeno De Rossi l'abbiamo conosciuto in diversi progetti alla batteria. Siamo con Biagio Marino, che innanzitutto saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Come vi siete conosciuti tu e Zeno? Allora, io in realtà ho conosciuto Zeno, lo seguivo musicalmente un po' di anni fa. Poi ci siamo conosciuti perché io gli ho proposto di registrare insieme i brani, che poi sono gli stessi che suoneremo domenica, che fanno parte di un disco, è stato pubblicato nel 2021 dalla Fonte Rossa Records. Quindi semplicemente gli ho proposto una collaborazione artistica, e lui, conoscendo i suoi gusti musicali, lui ha accettato, e poi adesso siamo diventati anche amici. La cosa è partita come collaborazione artistica, diciamo, poi è diventata sfociata in un'amicizia. E hai parlato di gusto, direi di approfondire cosa ascolteremo al Torrione. Allora, è un progetto non solo a detta mia, diciamo, sono il principale artefice, ma è un progetto particolare perché innanzitutto è un duo chitarra-batteria, quindi è una formazione abbastanza inusuale. Tutto nasce da brani originali che ho composto io utilizzando delle particolari accordature che sto studiando, sto lavorando da anni, accordature della chitarra, dello strumento, e anche una serie di effetti e elettronica, insomma, integrata nel set. E da questi brani, che sono delle fasi, insomma, piuttosto che rappresentano le fasi definite del progetto, poi noi ci avventuriamo in lunghe improvvisazioni in cui è presente ovviamente anche la parte elettronica, no? Quindi è un progetto del tutto originale, in cui Zeno ha una parte fondamentale, perché ovviamente nelle parti improvvisate io gli ho lasciato totalmente carta bianca, e ogni volta non sappiamo bene cosa suoneremo, diciamo, di preciso. Certo. In queste fasi poco definite, diciamo. Molte volte è in corso d'opera lo svolgimento, sì. Soprattutto per le possibilità che lascio alla rassegna curata da Istantanea per il Torrione. Quanto è presente? Ne abbiamo parlato la scorsa puntata con Alfonso Santimone, la parte elettronica. Non è un caso che sono stati citati i Portishead in ambito trip hop e lo saranno anche in questa domenica, e daremo una continuità alla rassegna sericotonale di Istantanea. Aggiungo che tra l'altro il progetto Codex è stato anche all'interno di Angelica con Zeno De Rossi e Biagio Marino, rispettivamente alla batteria, alla chitarra, alle parti di elettronica. Sarà domenica 11 febbraio dalle ore 21 al Torrione per concludere il weekend. Weekend appena iniziato, si può dire. Quindi la jam session seguirà questo concerto in duo. Concludiamo quindi la nostra conversazione con Biagio Marino per dare anticipazione alle sonorità per la chiusura con la domenica al Torrione. Allora, sì, abbiamo parlato di questi percorsi, abbiamo parlato di un disco. Io concluderei con questo dosaggio che c'è tra gli spazi scritti e gli spazi improvvisati. E com'è questo interplay tra di voi, Biagio? Cioè, con Zeno ci siamo trovati subito benissimo, perché avevo ben riflettuto sul personaggio proprio di Zeno, nel senso, conoscevo il suo, suona in ambito jazz, ma è anche parte di molti progetti in vari ambiti, e conoscevo, seguendolo anche un po' sul web, i suoi gusti, le sue frequentazioni musicali. Ed infatti poi nella pratica improvvisativa questi elementi vengono fuori, perché abbiamo dei gusti simili, abbiamo un percorso simile anche di ascolti, e quindi ci troviamo bene, insomma. È stata una cosa pensata, e diciamo, il mio pronostico è andato a buon fine. Sì, nel senso, sì, che effettivamente è stata così, poi si è verificata questa convergenza. E quali sono, se possiamo saperlo, un esempio di questi ascolti comuni? Abbiamo in comune sicuramente un background jazzistico, però un particolare tipo di jazz, ad esempio, che so, in ambito più precisamente jazzistico, la passione per Frisell, o Frisell, che dir si voglia, l'accento lo mettiamo dove capita, perché so, per Marc Ribot, per Tim Berne, insomma, quella per John Zorn, quella scena lì più o meno. Ma poi anche ascolti in altri ambiti, che so, il trip hop degli anni 90, che piace a me, piace anche a Zeno, che so, i Portishead, quella roba lì, o anche gruppi come i Blonde Red Dead, i Sonic Youth, insomma, indie rock, sempre di fine anni 80 e 90. Hai dato un bel ventaglio di idee. Sì, insomma, tante cose diverse tra loro che ci accomunano, e alla fine, secondo me, nell'improvvisazione, nelle fasi diciamo da definire volta per volta durante le nostre performance, questo viene fuori, si capisce che c'è una comunità di intenti, diciamo. E sarà appunto sul palcoscenico del Torrione per domenica 11 febbraio, Biagio Marino, Zeno De Rossi Duo. Biagio, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e per questa anticipazione, e ti auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi tutti. Prossima volta porto un disco dei Portishead, l'ho citato, insomma, sono stati presenti ma non inseriti in playlist, sarà mia cura rimediare, anche perché siamo arrivati al termine, sono le 12:25 minuti, a breve il GR di Radio Popolare. Voi vi state chiedendo chi è il sax contralto che avete ascoltato al fianco di Christian McBride? È Kenny Garrett, che abbiamo sentito anche al Paradiso Jazz qualche edizione fa. Poi abbiamo anche Kenny Barron, oltretutto qui che sta suonando in assolo al piano Gary Bartz, che accompagna sempre Christian McBride. Chico Ria, un altro featuring all'interno del disco Number 2 Express, e Jack DeJohnette alla batteria, che All Star Game per la Verve Record. Christian McBride, Number 2 Express. A breve avrete il podcast sia sulla paginetta del Jazz Live che anche diffusa attraverso il Jazz Club di Ferrara. Diamo appuntamento a venerdì prossimo sempre alle 11.30 e vi auguriamo in coro un buon weekend. Ciao a tutte, ciao a tutti da William ed Alfredo.